Che puttana! Mamma, che dici? Che sta registrando un video e dici i parole brutti? No! Ma dopo, vabbè! Ci hanno appena denunciato! Senza motivo!